propagazione. Non renocchici. Ui, ti sei svegliato, eh? Cane morto, eh? Come mai? Così presto, Marco? In compagnia di chi sei? Giovanna. Sì, io stavo passando per cercare roba in casa. Ciao Giovanna. Devo cercare roba in casa e il baracchino l'ho acceso poc'anzi, così appena entrano le 5 risento, dai, o giù di lì. Quindi sono di passaggio, non mi posso trattenere. Dai, già sentiamo più tardi, ok? D'accordo, d'accordo, non c'è problema. Beh, è avvicinata, che mangia alle 5. Adesso capretto. Per Giovanna però, tu non ce l'hai un baracchino che esce bello squillante, limpido, perché quello Y è troppo cupo, non si adatta alla sua voce. Un baracchino che esca bello squillante, non ce l'hai Antone da darle? C'ha il 2009, c'ha con microfono amplificato, però esce a fischi a volte. Hai capito? Invece con quell'apparecchio lì a fischi non esce per niente. Perché quello è scarmato di più, fatto meglio quello, professionale quello lì, non è un baracchino. Lo so, appunto per quello poi esce anche più forte di watt. Eia, per esempio in FM lei, sicuramente lei in FM esce bene, e quell'apparecchio in AM non è tanto adatto, ma in FM in SB è un bijou, però deve stare attenta, perché se passa in FM e la potenza è regolata su alta, in AM sono 20 watt. Però in FM credo che siano oltre i 50, non so se siano 100 addirittura i watt, non me lo ricordo. Potrebbe avere troppe stazionarie. No, l'antenna è tarata giusta, c'è 1,1 anche col coso, con l'altro baracchino, quindi l'antenna è a posto dal 2001. È perfetta, non bisogna mai toccarla. Poi è agganciata lì, capito? Se la gancio fuori da terrazzino, sì, riceve meglio, un pochettino di più, però c'è problemi stazionari a volte, capito? Quindi per non rischiare l'ho rimessa di nuovo dentro, agganciata dove è adesso. Poi vabbè, adesso sto aspettando l'altra antenna, appena sale Stefano me la porta e la mettiamo nel terrazzino, capito? Dall'altra parte. Quella canala pesca e così entro il cavo in salone, hai capito? E a me l'ha posto, a me lo può modulare tranquillamente, perché adesso è fuori in terrazzino, non è che sia bello modulare in un terrazzino specialmente dopo le 10 di sera che c'è che fa fresco. Sì, oggi c'è una bella giornata, vedo sole, poi la temperatura dell'aria non la so, vediamo se c'è. Giovanna, mi copi? La modulazione naturalmente come ieri è cupa, un po' cupa, dai, vabbè, si potrebbe provare in FM sperando che non spari troppi watt il tuo, ma forse lei non lo sa selezionare, no, il modo di emissione, Antonella. Io lo faccio vedere. Giovanni, ci sono quei due tastini, c'è scritto mode. Devi schiacciare finché ti appare il display FM, ti apparirà CW, USB, LSB, DIG e poi PKT, mi sembra che era. Tu metti nel prova, metti nel FM, Giovanni. E poi deve mettere lo squelch pure, però è un filo di squelch da togliere il rumore in fondo, quello lo sa fare, lo sa usare lo squelch. Sì, vabbè, glielo faccio vedere dopo io, non è quello, vabbè. L'importante è che cambia adesso la frequenza, così vediamo in FM. Papà, mi è sembrato di sentire una bellissima voce, vieni avanti. Ma meglio? Ehi, un abisso. Appunto, essendo quello un apparecchio di un certo tipo, non è fatto per la M tanto, non è come i Kenwood che escono bene anche la M, ma in FM è un bijou. Mi fai, Antone? È un bijou, chiaro che è un bijou, è come il Kenwood quando metteva in FM, guai, era un filuno, meglio della M. Signor. Vediamo un po' il segnale, Giovanna. Tu mi copi bene in FM, cambio. Ah, voglia. In FM è molto, è limpida la modulazione, dai, e la sua voce è naturale. Chiara, chiara, chiara, recuaro. No, Giovanna, ieri ho mandato un amico un piccolo video fatto allo scoglio lungo, no? Poratore, se allo scoglio lungo alla spiaggetta. Però è fatto quello il 23 gennaio, no? E gli ho detto, l'ho fatto oggi, sono voluto uscire, non ne potevo più, e ci ha creduto, dice. Ma dice, hai rischiato grosso. Ho detto, ma ti pare che rischio più e più sanzioni per andare, ancora no, ancora no. Appena finirà, allenteranno un po' la presa, andrò al mare in zona del genere. E ti fai il bagnetto, ti bagni i piedi. Chissà che il mare non diventi un brodo di virus, eh? Visto che tutti in estate ci fanno il bagno, va? Aspetta, quello che appena entra dentro, tu vedi quello che ci piscia dentro, c'è quello che si fa la cacca dentro al mare, hai capito? Quindi voglia progredire. Cesso. E a Londra, Giovanna, com'è la temperatura? Una domanda, tu sei esposta al sole in terrazzino o sei all'ombra? Attualmente sono all'ombra. Ma la temperatura dovrebbe essere buona, a meno che non ci sia vento, ma mi pare che rispetto agli altri giorni sia calmato il vento, giusto? No vabbè, quest'ora sta bene in terrazzino, è che ieri mi sono fatta, tra rientrare dalla campagna, mi sono fatta la doccia. Poi mi sono asciugata, poi sono stata con i bambini, poi sono uscita in terrazzino a parlare a baracchino. Però a una certa ora c'era freschino, eh. Alle 10, alle 11 c'era freddo, sì, a parte l'umidità che scende. Poi era anche mezzanotte, cioè. Giovanna, lo sai che poi alla fine mi sono trattenuto, è rimasto Antonello solo fino all'ultimo e zio Fester. Abbiamo chiuso all'una e un quarto di notte. La prossima volta rimaniamo alle 5 del mattino svegli. Facciamo una gara? Ah, io ci arrivo senza problemi. Tanto prima di quell'ora non dormo. Guarda, la possiamo fare di venerdì, perché dopo il venerdì non c'ho compiti. Attualmente ci dobbiamo annotare argomentazioni di cui parlare, se no non si riesce ad arrivare a quell'ora. Te ne immaginici, Antonè? Come succedeva una volta e parlavano fino all'alba, certo. Ah, io già mi organizzo, mi faccio un bel coso, mi metto la birra sopra il tavolo, qualcosa da rosicchiare, hai capito? E quindi fino alle 5, come l'ho già fatto. Vabbè, l'ho fatto qualcosa col telefonino, la verità, fino alle 6:30. Poi mi sono divertito, stavo tutta la notte rosicchiando, immaginati, mi sono bevuto 6 latini di birra, dalla mezzanotte fino alle 6:30 del mattino. Però caspita, se la tieni in birra, ma poi eri lucido oppure no? Beh, certo che è lucido, se ne bevi una ogni ora non ti succede niente, se ne bevi una ogni minuto già non credo che ti crepa. Però mi sono messo a mangiare, mica mi sono fatto fuori cipolline, funghi, tutta roba di sopracciti, pollo prosciutto, pane, salsiccia pure, ci avevo, mi sono fatto una bella, dopo la cena, immaginati tu, tutta la notte rosicchiando. Certo che andare a mangiare sottacciette roba così, bere birra, caffè da infarto, Antonè. Eppure stavo benissimo qua, la verità stavo benissimo. Poi alle 7 ho svegliato a Simona, gli ho portato la colazione, e dopodiché è venuto il sonno verso le 10:30-11, la verità, perché mi sono messo le cuffie, non so cosa vogliamo fare, e sono ascoltato la musica, mi è venuta questa sonnolenza. Poi mi ha dato le balle Simona e non ha dubbi tutta. Già lo sai che lei sta sempre da una parte all'altra, io prendevo, cazzo, e cioè, c'è paura, non si magari cade, capito? Dai, però non sarebbe male, ci facciamo un appunto su tutti, su cosa dobbiamo parlare, fino alle 5, a voglia. Una volta abbiamo fatto a casa di Angelo Delfino una cosa del genere, è venuto Andrea Manicomio, l'ha venuto lì in Via Anghero, verso le 11:30, poi io sono andato lì da Giannina, erano le 9:30 di sera, siamo stati tutta la notte in piedi, tutti e tre, fino alle 6:30 del mattino. Alle 7 siamo andati e ci abbiamo pigliato le paste, poi a mezzogiorno l'abbiamo mangiato. E vabbè, un conto è uscire, normale. Qui eravamo tutti e tre a casa di Giannina a parlare da baracchino, mi figurati, non è che stavamo parlando dentro a casa, parlo da baracchino, tutta la notte. Come ai vecchi tempi. Allora, poi siamo andati a trovare a coso, ci aveva l'appuntamento con Claudio e Giannina. E poi siamo andati direttamente lì al bar, che abbiamo bevuto il caffè, quindi figurati. Tutto la notte in piedi, grazie a Dio non ci avevamo nessuno per nulla. Era bello però, Beh, lo so che era bello. Bisogna fare così, bisogna stare organizzarci, capito? A voglia, gente magari che entra la notte, sta tranquillo che c'è, già c'è gente all'ascolto, c'era Giulio ieri notte, a mezzanotte e mezzo entrato. Avanti Marco. Ma tu sei sicuro che fosse lui o era Dio Fester? Ho capito, se sono sicuro che ieri notte era Dio Fester. Cioè eri sicuro che era Giulio o era Dio Fester, quello che ha parlato con noi fino all'ultimo? Oh, io parlo molto prima che entrasse Zio Fester, perché è entrato Giulio a voce bassa, è entrato, dopodiché ha chiuso, capito? Ma questo è molto prima che entrasse Zio Fester. Zio Fester arrivava a Santiago 3, poi ha attaccato la Gran Prix, se ti ricordi bene, e ha cambiato il sistema in pratica di cose, riusciva molto più forte. Certo che ci vuole carburante un po' per, sai, parlare tipo al baracchino, arrivare alle 5 di mattina. Vabbè, tu il carburante ce l'hai, Antonio, io con cosa mi posso carburare? Un bel cannone, Giova. Vedi, non sarebbe male, Marco. È che io non sono abituato a fumare nemmeno le sigarette, sai, non posso aspirare. Se aspiro nei polmoni mi viene da tossire, ma me ne escono gli occhi. Allora, fumare. E infatti io le poche volte che fumo qualche sigaretta non la fumo, non aspiro con i polmoni, la fumo con la bocca, tanto il sapore del tabacco lo senti con la bocca. Diciamo che tramite i polmoni senti la nicotina e poi ci si abitua, ecco perché i grossi fumatori non riescono a smettere, perché è una dipendenza dalla nicotina. Lo so, io sono fumatrice. Ascolta, lo ricordi Ivan, il figlio di Vela 3? Lui per esempio mi ha detto, lui è fumatore, e mi ha detto guarda non riesco a smettere di fumare, non c'è cerotto che tenga, non c'è sigaretta elettronica che tenga, quando si è assorbato la nicotina è un problema, ci vuole molta forza di volontà oppure non so se ci si riesce a smettere. Ci vuole molta forza di volontà a dire no alla sigaretta, ma sai cos'è, io fumo la sigaretta quando mi devo rilassare, me ne posso fumare anche due o tre di seguito, poi mi metto a fare in casa, poi non so cercarla, capito? Ah, tipo, cioè, tu solo per rilassarti, ma quante al giorno più o meno? 3, 4... Vabbè, 3, 4... Ci sono i giorni, se sono rilassata una cosa e l'altra, sto facendo una cosa in casa, no, anche 3 mi bastano durante la giornata. Lavorando ne fumavo anche di meno, quindi, perché c'avevo dopo un tot di tempo, la pausa, uscivo fuori, 2 minuti per la sigaretta e poi tornavo dentro. Allora è poco, dai. Vabbè, no, lui è tipo un pacchetto al giorno almeno, anzi forse adesso che siamo in questa situazione strana secondo me anche un pacchetto e mezzo è arrivato. D'altronde quando ti giri i pollici in casa che non sai cosa fare, guarda, o mangi o fumi, io mangio di più eccetera. Antonello berrà di più sicuramente, a birra, Antonello. Allora lo sai in quella palazzina dove abita Ivan, ne hanno portato via uno l'altro giorno. 4 giorni fa mi hanno portato via uno, è passata l'ambulanza, silenziosa è arrivata, ne sono usciti questi, cazzo, sembravano estraterrestri, sembravano adesso, e ci hanno portato via non so chi, la verità, perché non mi sono trattenuto. Comunque lì c'era uno, sì, tempo fa c'era un altro, Antone, Ma sono quelli dell'ambulanza che vedi vestiti a UFO. Sì, vabbè, se non c'hai problemi di coso, tranquillo, non si mettono mica così, no, per andare in un appartamento. Cazzo, basta solo la mascherina. Ma no che te li vedi, cazzo, con gli occhiali, hai capito? Tutti tappati, sembravano dei cusi, cazzo. Ci ho detto, cazzo, questo è il codice a 9, come minimo. Infatti ci sono stati, non era la medicalizzata, figurati. Infatti stavo pensando, boh, che non sia la madre di Iva che ci hanno portato, che Giuseppe aveva la polmonite, che gli abbia attaccata magari lui. L'ha girato. No, ma guarda, ma quanto tempo fa è successo questo? Perché loro abitano lì punti da tanto, mi. Una settimana fa. Tu si è cambiato casa, la verità non lo sapevo. Pensavo che abitava ancora qua. No. E da tanto sono un po' là da lì. Ma poi già lo sai che Giuseppe non c'è più, no? Già lo so che Giuseppe non c'è più. Aspetta, c'è un break, avanti. Ciao Angelino, ben sentito. Alice, la sa se mi manco Condor Giovanna. Ma voglio che arrivi bene, segnale 3. Vabbè, con l'attacco poi arrivi anche più forte, non solo l'altro. Avanti, riprenditela, Marco. Eia, e io lo ascolto male. È proprio sul fondo, al limite tra l'udibilità e la non udibilità. Infatti ho capito poco, ho capito la parola aeroporto e basta. Angelo, senti a Marco. Sì, allora il segnale è impennato malamente, sei 7,5 di segnale. Adesso sei capibile. Sì, ciao. Ok, cazzo che la bibicio qua, fuori il capo questa, fettivia. Vedi, anche arrivo alla finale Garant, sono fortunata. Oh, guarda che l'amica tua col Di Polo, se ti ricordi, da via, come si chiama, via Umana, arrivava col Di Polo tranquillamente al Ghero, te lo ricordi? Non l'ho più vista, la verità, da quando sono andato via da quel subito di Emanuele, non l'ho più vista, non so se sia, se abbia cambiato casa oppure no, se sia ancora lì. Ah, non lo so, non mi ricordo neanche di chi mi stai parlando. Di Marcolatta, si faceva chiamare Alba, te la ricordi? Ah, no, al monte abito. Al monte abita. E io. Lei col Di Polo, te lo ricordi, avevo dato il baracchino, gli avevo costruito l'antenna, gli avevo dato tutto, avevo dato l'alimentatore, baracchino, tutto quanto. Ci arrivava Alghero, che era una bellezza per dire, segnale di 8,5, quasi 9 arrivava. I tempi che furono. Davvero, i tempi che furono. Poi un giorno gli ho detto, ma il baracchino ancora c'è? No, se l'ha venduto mio fratello, mi ha detto. Vabbè, pazienza, cosa mi la futti. Ui, avanti, Marco. Ehi. Antone, quasi io stacco e dai, cerco roba in casa qui. Vediamo cosa riesco a recuperare, ok? E poi sentiamo, penso più tardi, e traranno anche gli altri. Comunque, in FM è molto più chiara lei, eh? Non c'è paragone, ma con quell'apparecchio me l'aspettavo. Proprio non è fatto per la M. Peccato, dai. Dai, ciao Giovanna, sentiamo. E Antonello lo stesso, dai, a più tardi. Ricordatevi che siete in FM. Magari entra qualcuno in AM a breccare. Vi regolate, dai, ok? Ciao, a dopo, ciao. Ciao Marco, a dopo. Ci sentiamo. E già si regolano gli altri quando entrano. Già se ne accorgo che siamo in FM. Andrà bene, Angelo, allora ha chiuso. Siamo io e tu. Per la vita, Antonio, per la vita. E lo prendiamo qua. Da prima all'ultimo, da prima all'ultimo. E l'ultimo al primo facciamo. Ciao Marco. Ciao Giovanni. A dopo, ciao. cazzo, già rinda. Oh, io via. Adesso bisogna buscare quel capo. Domani c'è aperto Fusano. Così almeno in terrazzino forse mi ti conviene. Mettiamo quella cosa che ho io in ferro e mettiamo l'antenna magnetica nel terrazzino, mettiamo, così almeno si parli dal salone. Solo che si è tappata per la zona di dove si è adesso, quello è il problema. Come fattoria? Fattoria FM, com'è? Meglio. Meglio? Buonasera. Buonasera. Giovanna, per quanto simi? Hai visto? Cambia tutto in FM, anche la voce. Ciao Antonè. Dino, sei al limite dello strappo. Addirittura, sono leggero. In FM però, quasi come un microfono normale, bisogna. Mi ho salutati poc'anzi loro due, che sto cercando roba in casa, poi siccome mi sono svegliato molto tardi non gli ho passato quel file, poi glielo passo appena entrano loro, ti passo il file e poi se vuoi delucidazioni ne parliamo, ok? Ciao Pia, a dopo anche a te, ciao. Eia, guarda adesso Marco che ho tolto il porcellino, sicuramente va bene. Eia, sì, perché in FM praticamente se metti amplificati e roba del genere, cioè se spingi tende a strappare, almeno su questo baracchino tende a strappare in ricezione. Potrebbe che dipenda soprattutto da me, perché ho visto che i baracchini non sono tutti uguali. Tu ne metti 10 in FM in ricezione, sono tutti diversi. Uno può strappare in ricezione, uno meno, uno è più cupo, uno più acuto, uno riceve più basso il volume, capito? Va bene, vi lascio. A dopo, ciao. Va bene. Io non so se Antonio mi stava ricevendo male o meno. O bene, non lo so, questo lo ignoro. Va bene Antonio, vedi un po'. Io sto usando esageratamente 8 watt, neanche. Oh, ti sento benissimo io, anche poco fa quando si è interatto. Sentivo l'amplificazione però non strappavi in questa baracchina qua. Io guarda, penso che ti sentiva bene lo stesso. Cosa cazzo mi è scesso? Cazzo fantasmi ci sono qua. Cazzo, ci vuole la 940 a casa tua. E in FM con gli AESO, figurati. Vabbè. Adesso ho anche attenuato perché sennò arrivano segnali oltre 960. Almeno senti a Giovanna come si deve adesso. Siete pari me, siete con l'apparecchio professionale entrambi. Ah sì? Andale, va bene. Prova Giovanna. 1, 2, 3, 4. Tu pensa che da 9.40 l'ho portata a Santiago 2. Attenuata, ti puoi immaginare. E beh, amplifica parecchio quella cosa lì. No vabbè, ho messo l'attenuatore perché sennò i segnali vanno oltre. Prova ora Giova. 1, 2, 3, 4. Sì, adesso vabbè, Santiago 2 però la radio c'è tutta, Ho migliorato, sì. E a voglia. Vabbè dai, che mi faccio una pennichella, ci sentiamo più tardi se ne ho voglia, sennò niente, dai, che domani si lavora, quindi devo divanare tutta la sera. Buona pennichella, di dopo pranzo. Buon riposo. Vabbè, ciao, divertite, va. Te a voglia, ci divertiamo. Ma Antonio, hai voglia di fare i compiti? No, lascia perdere, guarda, già mi basta la matematica, che non me la ricordo più. Figurati, non mi ricordo manco un tubo di elettronica più. A parte, vabbè, quelle poche cose che mi sono rimaste in testa. A forza di non fare più niente, capito? Mi sto dimenticando tutto, bisogna che mi prendo qualche libro, qualche giorno me lo compro e mi ripasso tutto, capito? Come Giulia, beh, almeno a pensare ai microfoni, quello già me lo ricordo, piano piano è sempre andato meglio così. Tu invece devi fare i compiti di tuo figlio, cosa le dai? Mamma mia, guarda, non mi vuole manco a posto tuo, guarda. A spiegare le cose tu fino alle 7 di sera che te le fa uscire gli occhi fuori. No, vabbè, oggi è Daniele, poi domani iniziamo con Mirko, aspetta, cos'è la Galileo Galilei, un'altra settimana russi, no. Ah, Galileo Galilei, vabbè. La data di nascita, dove è nato, dove non è nato, cosa faceva prima di fare quello che ha fatto, quindi tutto un bel ripasso, finché arrivare fino alla morte sua in pratica. Esatto, le scoperte che ha fatto, le scoperte che non ha fatto, poi gli anni, non so che cosa, ma dove si è spostato. E vabbè, gli faccio un riassunto al volo. Lo guardo su internet, ti faccio il riassunto, glielo faccio studiare a modo che sia pronto. E aspetta quando ci sarà il coso. Quando ci sarà tutti quelli che ha scoperto la corrente alternata, che la continua, poi se le cavavano gli occhi, perché quel poveraccio della corrente alternata è molto povero, invece l'altro è rimasto sempre quello che era ricco. E ovviamente gliene frega tutto, non solo l'altro. Anzi, gliene aveva fregato tutto. Quindi, io via. Quando fai le scoperte a volte qua cerchi di fare i soldi, invece rimani più povero di prima addirittura. Figurati tu. Come dico la testa, che è molto povero anche lui. Perché non c'erano finanziatori. Iniziano guai. Meno male già tutti quei fogli che avevano fatto, tutti quegli appunti, Tesla, li hanno fregati tutti gli americani, li hanno fregati. E tuttora li stanno usando per costruire qualsiasi cosa che aveva fatto lui. Sì, ma ha fatto delle belle cose comunque. Cioè, ha inventato delle belle cose. Sì, quello sì, ha inventato parecchie cose, il telefono, eccetera, eccetera. Poi c'è Guglielmo Marconi che ha inventato il vice trasmettitore in CW, da una sponda all'altra. Guarda, secondo me arriveremo anche a quello, prima che Giugno finisca la scuola. E oramai sì, tutto gli farò fare, capito? E poi mi basta guardare la televisione, lo vedi subito. Su Focus, qualche volta lo hanno queste cose qua. Adesso c'è tra qualche giorno l'universo, c'è, capito? Si impara come è fatto, cosa sono le comete, cosa sono i pianeti, eccetera, eccetera, capito? Vabbè, sono anche cose interessanti quelle, diciamocelo. Non gli fa male studiarsene. Beh, quello sì. Vabbè, lui è più che altro gli piace l'informatica, quindi. Io penso che se finito la terza media se ne andrà a fare qualche corso di informatica, perché lei è appassionato. Se lo fa di passione quella cosa lì, lui vedrà che lo trovi tutta la sera attaccato ai libri, te lo trovi. Sì, a 18 anni ci spediscono in militare, lui si fa le ossa. Bisogna vedere se va in marina o in coso, nell'esercito, se lo prendono. Dipende dall'altezza, dipende. A me non me l'ho preso perché ero basso, Giampiero è peggio di me, figurati. Tutti e due non avevamo i dovei. Sì, vabbè, non sono i tempi di prima, Antonella, va, c'è gente in marina che è basso, ma voglio che la riprendo. E quando vi fanno la visita medica ci sarà da ridere ciò qua. Sì? A me lo fa quello che vuole. Volevo fare il carabiniere, volevo fare il poliziotto, volevo fare chi, se volevo fare l'altro, lo spedisco militare e a posto. Sì, per vabbè, fare il carabiniere e il poliziotto ti conviene fare il finanziere, che è meglio. Almeno è più sicuro. Ti porta tutti i giorni la roba che sequestrano a casa. Avanti, Breco. Hello, Italia, no? Hello. Stazione italiana. Alfa Lima Primero, isola di Sardegna, chi è? Avanti, buonasera. Ho capito Conan, non ho capito da dove stai trasmettendo però, quale nazione sei? Giovanni, tu che conosci l'inglese cosa ha detto? Senti che lo sento. Senti? mi arriva 9 qua. Io neanche la sento, c'ho roba di QRM. Bubu, Conan. Questo non mi ricordo manco una sillaba all'inglese, ragazzi. C'è un blocco, blocco renale, ragazzi. Passa lì a Simona che si capiscono. Ah no, Simona parla tedesco. Io fossi stata a parlare tedesco, guai. Cazzo sei? Quando c'era la sera, mi verso l'estate. Verso le 6, un'ora di propagazione di apertura c'era. E ho detto a Simona, ho detto, chi chiama questo tedesco? Lo chiamava, e in 5 o 6 gli rispondevano. A faccia. E io ti giuro, guarda. E da ridere c'era. Perché mi sembravano bestemmiando tutti e due, parlavano in tedesco, gli ho detto, alla gente, io già non ci sono. Io per tedesco non ne parlo. Arrangiati, gli ho detto. Alla fine come ci siamo detti? Sì, gli ha chiesto dove abitava, cioè nel senso la nazione, la città, eccetera, eccetera, capito? E basta. Poi parlavano a burro, di tutto parlavano, capito? Creavano, ma lì gli hanno chiesto dove sei perché parli tedesco, lì c'è solo di Trento, capito? Ah, allora tu paesana nostra. Ah, sì, quindi erano contenti? Beh, secondo te, mica parlo così bene tedesco io. Io la guarda, sono 26 anni che conosco Simona, non sono riuscito a capire mai nulla di tedesco, neanche a parlarlo. Tu figurati se dovessi conoscere una brasiliana che metta a parlare brasiliano domani. Brasiliano è bello comunque, non ti credere. Vabbè, lo spagnolo già mi arrangio, però il brasiliano proprio è un portoghese stretto, capito? È come andare per dire, se vai col sardo che c'è per dire della zona di Sassari, di Ussi e Tissi, te ne vai a Nuoro e senti proprio quel sardo stretto che è una cosa allucinante. Sembra brasiliano, capito? Invece a Cagliari hanno tutto un tipo di pallatina. No, ma è che le litere fanno morire, hanno una dialettica troppo simpatica, io troppo. Già lo so, c'è un sacco di amici, coso Daniele di a Cagliari. Quando sono sceso insieme a lui, che mi ha portato a Cagliari dovevano provare delle barche, anzi tirarsi una barca che avevo diratto. Siamo scesi a Cagliari tutti e due assieme, capito? Ma sono fatto le risate a casa. Però la verità erano gentili, eh? Io venite, ci troviamo lì, beviamo, tutta la mattina bevendo stavamo, figurati, fino alle 2:30, poi da lì siamo partiti da Cagliari. Lì è un casino al ritorno, perché quando esci fuori da Cagliari, se sbagli poco a poco va in controsenso, nella 131. Ce ne sono pochi di cose strane, ragazzi. A me piace molto la parte di Sant'Elia, tantissimo, dove ci mi accomare. Cazzo, lì ci sono i delinquenti, come parlare di andare alla veloce, tale uguale, a Sant'Elia proprio mi guarda. Quando avevano le macchine dei sassaresi, pigliavano e bucavano le gomme quando andavano allo stadio per vedere il Cagliari. Ma se me ne ti rompi i coglioni, sono qua a Sassari, con la macchina di targata a Cagliari mi rompevano i coccomeri, mi mettevano anche la multa ai vigili. La mia perché la tagliata a Cagliari, quelle davanti con gli altri, ma per tagliare la testa non gli rompevano le scatole. Già lo so che Sassari e Cagliari non si possono vedere. Già lo so. Ma poi già vanno d'accordo adesso, quando sono fuori i sardi, specialmente i minoresi, e chi li tocca i sardi? Siamo tutti uniti, che sia di Cagliari uno, che sia di Nuoro, che sia di Sassari, sono tutti uniti. Specialmente tra militari si aiutano, capito, uno con l'altro. C'è un sacco di solidarietà, capito, tutto lì. Ma se lo fai nell'ambito regionale, si scanna allora. Cioè, il regionale è una cosa che si scanna, no? Sì, è normale, no? Però a me piace Cagliari, ma bello. Vabbè, è bello Cagliari, non è che sia brutto. Sono andato in Piazza Jenne io, via Roma, sono andato addirittura per con Angelo e Andrea, ero sceso per andare lì all'ufficio dell'ESCO a posto, quando mi hanno messo la multa e volevano sequestrarmi tutto, sono andato da questo signore, si chiamava Dottor Bizzi, era un tipo alto 1,70, bella persona, occhi ceresti, è salito su da lui da Cagliari, però per le balle a cosa, Pina sa dire, lascia stare Antonello, non rompere i coglioni, proprio detto chiaro e tondo. Tu immagini che questo, quel periodo lì, ne stava sequestrando poca roba, gli ho detto, se questo, detto, si punta poco a poco, detto, mi distrugge. Invece è stato carino. Io ho dato il diploma, gli ho fatto bene il diploma, allora se c'è il diploma siamo tutto a posto, Antonio, tutto a posto, mi ha detto, fai quello che devi fare, usa gli apparecchi, ripara, non c'è nessun problema, mi ha detto, ma accetti la massa crattica. E c'era uno di Palmato, l'ha fatto nuovo, l'ha fatto, si chiamava Panino, si chiamava, c'aveva una bella morvacca come direttiva, l'hanno crepato, l'hanno proprio. Perché gli è venuto in mente che c'erano tre carabinieri lì in barca, avevano bisogno di aiuto, cosa ha fatto? L'ha presentato nella frequenza VHF Marina, gli ha risposto, i propri carabinieri sono andati a sequestrargli tutto, poi l'hanno denunciato pure all'escopo. Da lì ha venduto tutto, se ne è fuggito, panificio, quello che aveva, antenne, e se n'è andato, mi sembra che in Brasile o in Argentina, non mi ricordo. Mi ricorda qualcuno? Sì, è proprio fuggito se ne era. Non ricordo sempre questo. Quando sono arrivato lì, a me non me ne frega niente, aveva detto. Sequestrateli tutto, mettete 1,5 milioni di multa e lire. Era. Cazzo, se questo gli viene in mente di mettermelo anche a me 1,5 milioni, ho detto, mamma, ha detto, mamma se mi butta fuori, sono babbo, gli ho detto. Allora l'ho chiamata a me, venga. Io gli ho risposto come nuove cose e meno male è stato gentile, no, tu sei a posto, non metterti il problema, dice già salgo su io a Sassa, io pensavo non ci saliva per niente, invece è salito, mi ha telefonato, dice Antonella, dice ci vediamo al bar che c'è vicino a Piazza d'Italia, quasi all'angolo, e mi aveva offerto la bere, gli ho offerto la bere anch'io. E mi ha detto, dice, ti do le scuse, dice, da quel signore lì, dice, che si era appuntato con te. Adesso dice, da oggi in poi, dice, ti lascia tranquillo, non ti rompe più le balle, gli ho fatto male. Questo perché sembrava più uno stalker che altro, ce l'ha proprio con te. Pintoni! Sì, uno stalker proprio, era. Buonasera, chi è? Ciao Antonio, NFM. Ciao Giovanni, Giulio. Adesso sono di passaggio qua. Vabbè, va, riprendi, scusa l'interruzione. Ciao Giovanna e ciao Antonello. Ciao Giulio. Scommetto che la senti meglio Giulio in FM, Giovanna. Meglio di te. Ti segnale più bassa, però come modulazione è più bella, più pulita. Ce lo credo. È la signorina, anche lei.